Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi parliamo del romanzo di Marcello Foïs, Nel tempo di mezzo, pubblicato da Einaudi. Il libro è arrivato quest'anno in cinquina sia al Premio Strega che al Campiello. Si racconta la storia di un giovane orfano, Vincenzo Chironi, che alla fine della Seconda Guerra Mondiale decide di lasciare il Friuli e andare in Sardegna alla ricerca dei suoi veri genitori. Così lo descrive l'autore. Intanto è un uomo fatto, perché ha 27 anni quando decide di intraprendere questa ricerca, che non è quindi una ricerca di identità, perché lui sa chi è portatore anche di una cultura molto precisa, è un friulano tutto, completo, ha semplicemente, come dire, un deficit di amore che gli deriva dal fatto che ha scoperto dei genitori, quindi ha scoperto una paternità molto tardi nella sua vita, ha scoperto di essere figlio di un ufficiale della Brigata Sassari, e questo in qualche modo lo conduce a riscuotere un debito, io direi, sostanzialmente. Per cui Vincenzo arriva in Sardegna con un apparato, con una cultura, con un sistema mondo intorno a sé, che gli permette di, in qualche modo, di aprirsi ad un'altra opportunità, ad un'altra possibilità. Non è vero che le identità si escludono a vicenda, le identità si includono a vicenda. Quanto più uno ha un bagaglio solido, tanto più è aperto, è disponibile all'altro, al prossimo. Vincenzo arriva nella Sardegna del secondo dopoguerra, che tipo di realtà trova? Come la Sardegna aveva vissuto il periodo della guerra? Ma in maniera difforme, chiaramente. Le coste erano state chiaramente molto bombardate, i porti sostanzialmente. Per il resto la Sardegna interna era strategicamente di nessuna importanza. Quindi, per esempio, già i miei nonni, i miei genitori non avevano la minima competenza di Seconda Guerra Mondiale. Noi, in quanto sardi, eravamo esperti di Prima Guerra Mondiale, sa guerra, come la chiamavamo noi, era quella. L'altra era il conflitto, quello che si chiamava più genericamente conflitto. E quindi è stato meno pesante da un punto di vista logistico, anzi, paradossalmente l'interno, essendo zona di sfollati, vive in quella stagione lì una specie di prosperità che prima non aveva avuto, perché da Cagliari, da Porto Torres, da Olbia, da Alghero, cioè da Tortolì, da Arbatax, da tutte le zone, diciamo così, martellate dai bombardamenti, perché porti, praticamente arrivano i profughi verso l'interno e in qualche modo ingrassano, diciamo, quella economia che era assolutamente di sussistenza. Quindi paradossalmente quella è stata una stagione di strana prosperità per quel territorio. Quando Vincenzo arriva in Sardegna, di fatto trova della sua famiglia il nonno e una zia. La zia finisce per prendersi cura di lui, anche se lui è già grande, quasi come se fosse una madre. Ma il rapporto fondamentale, almeno secondo la mia opinione di lettrice, è quello che si instaura fra Vincenzo e il nonno. Un rapporto fatto di poche parole, ma visceralmente profondissimo. Come l'hai inteso tu? Sai, il punto è questo. Cioè c'è una discrepanza, una dislessia tra l'età di Vincenzo anagrafica, diciamo così, e la sua età affettiva. Per cui cosa accade? Quando lui trova questo nucleo che è disponibile a dargli quanto gli spetta, lui paradossalmente indietreggia da un punto di vista dell'età affettiva, cioè ritorna un bambino. Quando Vincenzo incontra Cecilia, e Cecilia ha 17 anni, lui ne ha 32, loro sono paradossalmente coetanei. Cecilia è la ragazza di cui si innamora ed è una promessa sposa, insomma possiamo dirlo, non è un segreto del libro, non è un giallo, e poi finiranno appunto per sposarsi e intraprendere una vita insieme. Che tipo di rapporto ha Vincenzo con questa ragazza, ma in genere col mondo femminile? All'inizio sembra molto inesperto proprio sentimentalmente. Certo, lui è inesperto sentimentalmente, quel cotè della sua vita è assolutamente inespresso, semplicemente non c'è. Ha vissuto tutta l'infanzia in un orfanotrofio, gran parte della sua adolescenza e giovinezza in un seminario per grazie alla generosità di un prete che l'aveva preso a benvolere. Il resto della vita era aveva cercato di sussistere, di sopravvivere, nel frattempo la madre era morta, del padre non conosceva l'esistenza, quindi questo è il dato affettivo di Vincenzo, è questo. Ed è il punto saliente della figura di Vincenzo, cioè Vincenzo è un personaggio bipolare sotto certi aspetti, cioè tanto efficace da un punto di vista della propria dignità, del fare, del dire, è un artigiano, è un Chironi vero da quel punto di vista, è uno che per esempio se ne frega dell'essere benestante ma vuole lavorare e così via, tanto appunto è solido, è compiuto da quel punto di vista, tanto è invece fragile e assolutamente spumoso, direi, aereo da un punto di vista affettivo, deve imparare tutto, deve sapere tutto ed è esposto a qualunque tipo di contraccolpo, come effettivamente avverrà. Soprattutto nella prima parte di questo romanzo c'è moltissima descrizione del paesaggio, nel momento in cui si racconta proprio l'arrivo di Vincenzo nella Sardegna, un paesaggio aspro ma bellissimo. Quanto conta per te la descrizione appunto del paesaggio, di quello che circonda i protagonisti che si muovono sulla scena? Totalmente, per quanto mi riguarda. Io credo che oggi più che mai il paesaggio, il posto su cui posiamo i piedi, sia il nostro brodo di sussistenza. Se noi perdiamo la meraviglia per questo paesaggio, e questo è il motivo per cui Vincenzo è una specie di metafora per me della meraviglia con cui noi tutti i giorni dovremmo considerare il mondo che ci circonda. Questa è una nazione incredibile e non si capisce perché noi non siamo più gente bella, nonostante la meraviglia della nazione all'interno della quale viviamo. E io mi sono risposto che probabilmente non lo siamo più perché abbiamo smesso di meravigliarci, perché ci sembra tutto assolutamente gratuito e scontato. E invece Vincenzo, che arriva da un altro posto e arriva in questa Sardegna che è marziana, in qualche modo fa quell'esercizio che noi dovremmo fare tutti i giorni, cioè stupirsi. La tua scrittura è molto lirica, poetica, si vede che è una scrittura molto pensata e lavorata. Qual è il tuo approccio nel momento in cui scrivi un libro? Il mio approccio è di avere continuamente un lettore che mi sbircia dietro le spalle mentre scrivo al computer, che guarda cosa sto combinando, e contemporaneamente il mio approccio è di resistere alla tentazione di girarmi per guardarlo in faccia. Ecco, quindi tenderei a tener conto del fatto che esiste un lettore, che c'è e che io devo rispettarlo assolutamente, ma al quale non devo assolutamente genuflettermi, perché se io mi genufletto a lui, lui non me lo perdonerà. Io credo questo. Sono precipuamente un lettore e quindi questo è quello che pretenderei da uno scrittore. Ecco, cerco di non fare al mio lettore quello che non vorrei fosse fatto a me. Tu dici anche che la bella scrittura non deve essere di pochi, insomma tutti possono leggere una scrittura particolare. Credo di sì, credo che una nazione, una società è più matura quando smette di fare questa stupida dicotomia tra il libro o che racconta una storia e basta, è un libro che è scritto bene e basta. Non è così. Un libro scritto bene deve raccontare una storia, un libro che racconta una storia deve essere scritto bene. Bisogna scrivere bene per tutti, non scrivere così così per tutti e bene per pochi. Non esiste questa cosa. Questo mi sembra una condizione di grande provincialismo e di grande povertà intellettuale. E questo era Marcello Fois, autore di Nel tempo di mezzo, pubblicato da Einaudi. Prima di chiudere vi annuncio una nuova iniziativa di Radio 24. Con il Calciatore di Libri avete la possibilità di ricevere 2 biglietti per visitare la mostra di Picasso a Palazzo Reale di Milano il 24 ottobre in una serata speciale. La mostra sarà infatti aperta in esclusiva per Radio 24 e gli ascoltatori la visiteranno con i conduttori. Chi è interessato può inviare subito un SMS con scritto P